quasi da centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Sì, lo so, va bene, solo calcio d'agosto, sono solo amichevoli, però il bilancio della domenica delle nostre bighe è da brivido. 4 partite, 4 sconfitte, 2 gol fatti, 12 subiti. Una Via Crucis che è partita ieri mattina dalla Juventus, poi è proseguita con il Napoli, quindi il tracollo dell'Inter, questa notte il Milan battuto dal Chelsea. Dite quello che volete, ma trovo che ci debba essere anche un senso di misura nella sconfitta, e almeno un paio delle nostre grandi, penso a Juventus e a Inter, quel senso della misura non l'hanno rispettato. Sentite Antonio Conte. Bisogna metterci quell'intensità, quella cattiveria, quel furore agonistico passato, quell'attenzione, quella voglia di dimostrare sul campo, non solo sulla carta, di essere superiori agli avversari, ecco, perché oggi sulla carta eravamo superiori agli avversari, il campo ha dimostrato l'opposto. Noi abbiamo dominato 2 anni in Italia perché abbiamo avuto caratteristiche superiori rispetto agli altri, dovute oltre all'organizzazione, alla fame, alla cattiveria, all'attenzione, alla concentrazione. Adesso magari facciamo lo stesso tutto, però magari non lo facciamo con quella cattiveria o con quel furore che lo facevamo. Per fortuna arrivano adesso queste batoste, se saremo intelligenti e bravi ne faremo tesoro. Un saluto a Marco Ansaldo, collega della Stampa. Ciao Marco. Ciao. Quante volte l'hai sentito così? Io non so se è arrabbiato. Oggi Tutto Sport riporta in prima pagina un virgolettato: o vi svegliate o vi prendo a bastonate. A me, più che arrabbiato, furioso, come è stato descritto, sembra preoccupato Conte per quello che non riesce a rivedere nella sua Juventus. Sto con te, nel senso che secondo me anche non è un problema di essere arrabbiati o meno. Io non credo che poi con la rabbia si risolvano i problemi, anzi la rabbia a volte toglie anche un po' la lucidità poi per risolverli, però la preoccupazione è quella, sì, e la preoccupazione secondo me non nasce tanto dal fatto di vedere una squadra che non ha quella determinazione che ha avuto in passato e che comunque bisogna mettere in conto. Secondo me la preoccupazione nasce da alcune cose, ad esempio Pirlo che concede palloni agli avversari trasformandoli quasi in assist, non è un fatto del tutto sconosciuto, nel senso che Pirlo nell'ultima stagione, e se andiamo a guardare anche alcune partite della nazionale in Brasile, ha sempre avuto un modo di giocare per cui teneva palla ed era molto bravo a tenerla e poi a smistarla al compagno che nel frattempo si smarcava. Adesso è meno veloce in questo fatto e quindi qualcuno va a rubargli palla e in qualche modo crea una nuova azione nei confronti degli avversari. Tu dici ci sono segnali che vanno analizzati. Ci sono segnali che vanno analizzati non solo dal punto di vista sempre della rabbia, la fame, tutte queste cose qui, la fame, io non ho mai visto un calciatore con la fame, ma è proprio un fatto da analizzare se ad esempio alcuni uomini chiave nella Juventus di Conte non stanno mostrando proprio l'usura, la corda. E quindi in qualche modo questi sono problemi che vanno risolti con più difficoltà, ecco, perché sono convinto che Conte abbia tutte le chiavi per risvegliare la Juve dal punto di vista caratteriale, però se invece ci sono dei problemi che sono fisici, di usura e così via, non lo so se questo è possibile poi fare. Intanto io ricordo il numero per intervenire in diretta: 800 24 00 24, questo per le vostre telefonate, oppure potete scrivere i vostri messaggi 349 238 6666 o ancora seguirci su Twitter, @ tutti convocati. Io lo dico subito, poi ne parleremo dopo la pausa per il traffico, ci collegheremo con Stefano Stefano Eragno, è stata davvero una domenica scioccante e secondo me benefica per il calcio italiano. Noi adesso stiamo parlando della Juventus, ma anche l'Inter ha fatto una figuraccia, ha dei problemi che sono strutturali, e poi c'è la sconfitta del Milan, meno clamorosa, ma che in un certo senso certifica la distanza che c'è in questo momento tra il Milan e il meglio d'Europa. E poi c'è stato anche il Napoli. Marco Ansaldo, parlavi di problemi che possono essere strutturali. Io aggiungo una carta a questa tua analisi. Tevez e Llorente nelle partite vere, non quelle con i dilettanti, ancora non hanno trovato la via del gol. Ieri Tevez la partita l'ha vista dalla panchina perché, riporta oggi il Corriere dello Sport, è troppo stanco, dai tempi del Boca Junior non lavora così tanto. Comincia a dover suonare un campanellino d'allarme, perché questi erano i due acquisti che dovevano far fare il salto di qualità alla Juventus. Ma Tevez sicuramente, io sugli Llorente ho qualche dubbio, nel senso che è un giocatore, è vero, stava nell'Athletic Bilbao, che non è un club di grande vetrina, però il fatto che poi questi arrivino a sganciarsi così dal club senza che in Europa ci sia qualcun altro che si mette di mezzo mi lasciano un po' perplesso, quindi non credo che Llorente sia quello che, uso una bruttissima parola, sia un top player. Tevez lo è, e ci sta anche che i metodi di allenamento che ci sono alla Juventus con Conte siano metodi tali da creare difficoltà immediate a chi non ci è abituato. Quindi non sarei così convinto. Ad esempio, io penso che Llorente potrebbe anche perdere il posto in tempi abbastanza brevi. Sì, magari per Matri, che tutte le volte che vede il campo poi trova anche la porta. Oppure Vucinic. Io penso più a Vucinic che non a Matri. E tenendo conto che è vero che siamo soltanto ai primi di agosto, però il 24 comincia il campionato, non c'è poi così tantissimo tempo per risistemare le cose. E quindi la Juve poi a gioco lungo verrà fuori tutto quanto. Ma la partenza anche come calendario è difficile e non mi sembra che la Juventus sia in questo momento preparata. E torno a dire, attenzione, perché ci potrebbero essere dei problemi che non sono stati considerati o che sono stati in qualche modo rinviati al futuro. Uno di questi potrebbe essere anche Pirlo, che non credo possa fare tutta la stagione come ha fatto la prima stagione della Juve. Tra i problemi vedi anche qualcosa in difesa. Ogbonna è uno di quelli più in difficoltà in questa parte di preparazione della stagione. Anche questo, per carità, può essere tutto spiegabile, però è vero che la difesa della Juventus ha un'età media abbastanza alta, viene da due stagioni con, credo, in tutto una quarantina di gol incassati in campionato. Non è scontato che possa ripetersi. Ma io credo che innanzutto Bonna non è Beckenbauer, quindi insomma diamogli anche il tempo, cioè non è un fenomeno assoluto, è un buon giocatore, secondo me è anche un ragazzo molto intelligente per bene, e queste sono già delle cose importanti per cercare poi di migliorare. Adesso immagino che sia un po' spaesato nel tipo di gioco che si richiede alla difesa di Conte, deve trovare degli automatismi, non è tutto così semplice. Vorrei ricordare ad esempio che all'inizio con Conte anche Bonucci era un giocatore che avremmo fatto volentieri accomodare in tribuna e poi è diventato in realtà uno dei migliori difensori italiani, forse in Europa. Quindi io credo che Obonna alla fine si riprenderà. Il problema della difesa della Juventus, secondo me, è come viene coperta davanti, perché la difesa della Juventus sale sempre molto per appoggiare l'azione. Se qualcuno a centrocampo perde palla in maniera diciamo così imprevedibile, ecco che immediatamente il centrocampo avversario costruisce una ripartenza. Sì, è difficile pensare a quel punto che la difesa possa sempre metterci una pezza. Esatto, anche perché è sbilanciata. E guarda che lo stesso problema, tutto sommato, c'era anche la difesa nazionale. Sì, non c'è dubbio. Al 349-238-6666 Riccardo scrive: la dimostrazione è che non si vince con le figurine. Io non credo che la Juventus abbia fatto collezione di figurine, però probabilmente il lavoro di ricostruzione deve essere più profondo di quanto sia stato fatto. Credo sia questo il senso. E poi comunque è calcio di agosto, prendiamo alcune indicazioni, magari fra due mesi la Juventus è in testa alla classifica e si è dimenticata di queste difficoltà. E poi Franco che scrive ancora: perché dite sempre cattiveria e non grinta per i più piccoli, non è educativo, perché si tratta di cattiveria sportiva, Franco, e non c'è niente di male. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siamo con Marco Ansaldo, inviato della Stampa. Io dico però che anche Conte deve probabilmente fare uno sforzo ulteriore rispetto al passato. Lui ha fatto un miracolo anticipando di due anni il progetto per riportare la Juventus a vincere lo scudetto. Mi sembra che quest'estate si sia reso un po' troppo in fretta nel ritorno al suo 3-5-2. Anche ieri abbiamo visto poi alcuni tentativi di tridente davanti, addirittura un esperimento con la difesa 3. Mi sembra che forse anche lui debba dare qualcosa in più per aiutare la Juventus a provare a essere diversa, un po' meno prevedibile di quella degli ultimi due anni. Sì, hai ragione, credo anch'io che la Juventus ormai, come tutte le squadre del resto, Barcellona stesso, che pure ha insegnato calcio per quattro anni, alla fine era diventata una squadra prevedibile, quindi se non c'era Messi che faceva il fenomeno o Iniesta o Xavi, ecco che Barcellona diventava facilmente o comunque abbastanza facilmente bloccabile. La Juventus, che non ha nemmeno quel tipo di fenomeni lì, deve a maggior ragione provare a cambiare qualcosa. Io non credo che il 3-5-2 sia un dogma. Tra l'altro io mi chiedo, avere un attaccante come Llorente, cioè uno di 1,90 m, alto, suppongo anche abbastanza forte sui calci, sui colpi di testa, penso, anche perché l'ho visto poco, e poi non avere della gente che sa fare il cross non credo che sia una soluzione particolarmente importante. La Juventus in questo momento fatica sugli esterni. Isla è stato un fallimento l'anno scorso e anche adesso non mi sembra che stia rendendo granché. Non ha terzini che piazzano il cross. Un giocatore che fu molto importante nella prima stagione, tutti hanno dimenticato, fu Pepe, perché era proprio quello che più di altri riusciva a piazzare bene la palla in area. Sì, Pepe che dovrebbe rientrare, sì, però e, fare dovrebbe rientrare e fare i primi minuti nei prossimi giorni quando la Juventus rientrerà in Italia, però in questo momento sta mancando molto. 349-238-6666 Max da Corbetta, per favore, siamo ai primi di agosto e avete già condannato Pirlo. Max, nessuno ha condannato Pirlo, ha fatto un errore e evidentemente ci sta, e anzi Pirlo è uno di quei giocatori che ha un tasso di errore, se possibile, limitato al minimo. Però è vero che alcuni discorsi vanno fatti. La Juventus ha rinunciato, ad esempio, in questo mercato a trovare un vice Pirlo. Pogba probabilmente andrà impiegato in un ruolo leggermente diverso e forse questo può essere un limite da qui a giugno, quando poi gran parte di questa formazione volerà in Brasile, si spera, per fare il mondiale. Nico da Caserta ti contesta, Marco, la definizione che Bonucci è uno dei più forti difensori d'Europa. Se vuoi rispondere. Sì, secondo me in una difesa a 3, piazzata in mezzo, allora se la mettiamo in una difesa a 4 ho sicuramente ragione l'ascoltatore. Se lo piazziamo in mezzo a una difesa a 3, quindi con due che lo coprono bene, Bonucci è uno dei più forti giocatori d'Europa in quel modulo lì, perché è uno dei migliori, e vorrei che questo ascoltatore me ne indicasse altri, dei migliori dal punto di vista della qualità del tocco di palla, del lancio e così via. È, diciamo, un giocatore che 20 anni fa avrebbe fatto il libero dietro alla difesa, e nella difesa a 3 sostanzialmente torna a fare quello, e quindi è un giocatore che, quando non vuole fare il fenomeno, non cerca delle cose particolari, dà un grande affidamento. A me piace molto, l'ho visto enormemente cresciuto con Conte, cioè Pirlo è veramente la creazione di Conte più di ogni altro giocatore. Quanto all'altro ascoltatore diceva, abbiamo condannato Pirlo, è che Pirlo è diventato una specie di Madonna addolorata, cioè non si può dire niente su Pirlo. Attenzione, Pirlo ha fatto una stagione, la prima stagione della Juve è straordinaria, probabilmente la miglior stagione della sua vita, perfetta, è stato l'uomo che ha costruito veramente la Juve di quell'anno lì. Ma già l'anno scorso qualche segnale di cedimento c'era stato, e anche in nazionale, attenzione perché ha fatto una grande partita la prima d'esordio e poi dopo qualcosa ha ceduto, anche perché era molto stanco. Cioè Pirlo non è un giocatore che si può pensare faccia oggi 38 partite di campionato, tutte le partite di Champions, magari anche la Coppa Italia, le partite della nazionale, e che possa continuare a giocare, perché comunque con l'età che ha, con la carriera che ha, è un giocatore che adesso va centellinato. Io è solo questo che dico. Sì, Pirlo difficilmente può arrivare alle 60 partite che lo attendono, sì, nella prossima stagione mondiale compreso. Lui le vuole fare, ma bisogna, ciascuno di noi vorrebbe fare grandissime cose, poi però deve anche capire che gli anni passano per tutti, sono passati per me, sono passati per te, sono passati anche per lui. E sono passati anche per Pirlo. Grazie Marco Ansaldo. Ok, grazie a te, ciao. Grazie Marco Ansaldo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Diteci che cosa ne pensate della sconfitta della Juventus, della figuraccia dell'Inter, perché di questo si è trattato, di una figuraccia, il 4-0 contro il Valencia. Ci troviamo dopo il traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta per la domenica nera del calcio italiano. Io lo ripeto, lo so, va bene, calcio d'agosto, sono solo amichevoli, ma se in una domenica quattro delle nostre grandi squadre, Juventus, Milan, Inter, Napoli, vanno in giro per il mondo, perdono quattro partite e le perdono anche male, due gol fatti, 12 subiti, insomma, secondo me qualche domanda bisogna farsela. Sulla Juventus abbiamo provato ad accennare qualche risposta, mi pare di capire che non tutte vi piacciono. 349-238-6666 ci scrive un amico: la difesa della Juventus non è vecchia, non ha nessun over 30, ma non lo so, io Buffon, Barzagli, Chiellini comunque è molto vicino ai 30, io credo che la difesa della Juventus da qui a un paio di stagioni dovrà cambiare pelle, ma non lo credo io. La Juventus ha investito molto su Ogbonna, che ha 25 anni, io penso che sia stato un investimento non per dare una riserva a quel pacchetto difensivo, ma per dare un'alternativa importante. E poi un altro amico scrive: come ala vedrei bene Vucinic, nel 4-3-3 salta l'uomo ai piedi per crossare, può essere una soluzione, però attenzione, Conte ha detto che il 3-5-2 è in questo momento il modulo che esalta meglio le caratteristiche dei giocatori della sua rosa. Anche qui io l'ho detto, Conte deve fare uno scatto in più. E poi ancora un amico: la Juventus quest'anno sarà la sorpresa in negativo. E poi un altro: ultimamente Pirlo anche in nazionale perde tanti palloni creando scompiglio nelle retrovie. Andrea da Milano. Sentiamo altre voci di questo fine settimana. Cominciamo con la delusione di Mazzarri dopo il KO contro il Valencia. Se si guarda solo dal punto di vista della partita, abbiamo fatto tre passi indietro rispetto al Chelsea, che siamo partiti proprio male. Il Valencia era molto più rapido con la palla, arrivava sempre prima sia nel gioco che nella riconquista di noi. Eravamo imballati, probabilmente, lo dico subito, l'ho detto anche ai ragazzi, la colpa è mia, perché in questo momento io guardo i carichi, ieri l'ho fatti lavorare troppo, si vedeva, erano imballati, erano non lucidi, però io in questa fase della preparazione preferisco che la squadra lavori, sia imballata. Bisogna fare una scelta: o fare bella figura nelle partite amichevoli, che per me, al di là che è un torneo, però per me sono partite amichevoli di preparazione al campionato, o si fa questa scelta e non si lavora e allora siamo più brillanti e facciamo buona figura, oppure si va dritti per la nostra strada sperando che questo lavoro poi ci ripaghi in campionato. Qui c'è da ripartire da zero, da creare un gioco, da creare un'unità di intenti, è tutto diverso. E questo era Mazzarri, come se il Valencia non stia svolgendo la stessa preparazione, non abbia davanti una stagione lunghissima, non lo so, è come se le gambe pesanti valgono solo per i nostri. Rafa Benitez, Napoli. Siamo in precampionato, è chiaro che si è visto che le due partite del primo tempo le abbiamo fatto un po' meglio, il secondo tempo mancava sempre qualcosa. È chiaro che dobbiamo ancora lavorare. Sono due partite diverse, due squadre diverse. Il secondo tempo sempre abbiamo perso un po' di freschezza, no? È chiaro che siamo in ritiro, siamo nel precampionato e così la squadra deve lavorare forte durante le partite, ma fisicamente non siamo a livello ancora. No, la squadra ha problemi quando manca qualche freschezza, come ho detto, se abbiamo gambe, giochiamo più o meno, ma dopo quando è un po' stanca, se l'altra squadra è forte come oggi e abbiamo subito un gol, a contropiedi sono pericolose, questo era il problema al secondo tempo. Ieri il Napoli ha perso male contro il Porto, però il primo tempo contro l'Arsenal di sabato, secondo me, è un segnale assolutamente positivo per la squadra di Benitez. Buon pomeriggio Stefano Eragno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, quanto pesano le gambe in questa fase della stagione? Questo il precampionato di solito serve per riempire un po' il serbatoio di benzina che poi deve servire per mantenere una certa forma durante il campionato, perciò pesano tanto anche perché i carichi sono maggiori e le prime partite sei a rischio di figuracce, anche se il Napoli devo dire che tra le grandi è quella che ha sofferto un po' meno, però come ha detto anche Benitez è difficile adesso mantenere per tutta la partita una condizione, una velocità sempre al top. Perciò quando incontri squadre che sono molto più avanti di te nella preparazione rischi di comunque di prendere gol, ma questo non è un problema. Certo, sono delle partite che ti devono dare devi prendere dei riferimenti, però non è un problema se perdi adesso. L'importante è comunque per il proseguo del campionato. Sì, diventa un problema perché poi non giochi contro la squadra di dilettanti, non giochi amichevole, semiclandestine, hai le telecamere che vi visionano ogni minuto della partita come fossimo nel pieno della stagione e questo può provocare dei problemi. Credo che da questo punto di vista sono ovviamente comprensibili le esigenze di bilancio. Oggi su alcuni giornali si fa il conto, Milan, Juventus, Inter incassano per questa tournée circa 3 milioni di euro e sono soldi cui nessun club, non solo italiano ma anche straniero, può rinunciare in questo momento. Credo però che da questo punto di vista si facciano più danni che vantaggi alla preparazione di una stagione, perché poi sconfitte brutte, io penso soprattutto ad esempio al 4-0 che ha incassato l'Inter a Valencia, in qualche modo possono anche avere delle ripercussioni se non si è capaci di restare impermeabili alle critiche. No, quello sicuramente, anche e soprattutto hai detto bene l'Inter che ha un allenatore nuovo con idee nuove, perciò certe battoste possono moralmente creare dei problemi, però secondo me devono star sereni tutti quanti e cercare di lavorare, come hai detto te, anche il fatto di andare a raccogliere un po' di soldi in giro con queste tournée non ti fanno lavorare certo come vorresti, anche perché sono esseri umani e quando inizi a girare non avere momenti di riposo, la partita comunque hai di fronte della gente che, come ho detto prima, oltre ad essere più avanti nella preparazione vogliono fare bella figura, perché il campionato italiano è sempre comunque una vetrina importante e perciò i giocatori si vogliono mettere in mostra e questo ti può far andare incontro a delle situazioni poco piacevoli, però è anche vero che adesso l'importante è solo mettere benzina dentro il serbatoio per poter poi, quando il calcio diventa vero, poter fare bella figura. Sì, quanto c'è di verità in Mazzarri quando dice è colpa mia, ho caricato troppo gli allenamenti? Io ho l'impressione sia anche il modo per provare a proteggere la squadra dopo un brutto scivolone davanti a critiche che evidentemente Mazzarri è consapevole arriveranno e l'Inter in questo inizio di nuovo progetto è comunque un germoglio che va conservato per evitare che si rompa un qualunque piccolo tipo di equilibrio. Ebbene, l'allenatore è giusto che faccia questo, anche a volte andando incontro a non dire la verità, però io adesso questo non so, sicuramente può aver fatto anche degli errori di valutazione facendo dei carichi, come ha detto lui, pesanti, ma soprattutto per salvaguardare un po' il morale della squadra, anche perché 4 gol sono comunque sempre tanti, però è importante andare a analizzare come sono stati presi 4 gol, cioè, cercare di salvare quello che è stato fatto di buono e cercare di lavorare più su quelli che sono stati poi gli errori. Sì, e poi manca ancora quasi un mese di mercato e l'Inter, volente o nolente, deve ancora intervenire. Il Milan, come ti sembra? Era troppo brutto, era finto quello di Monaco contro il Manchester, un po' meglio quello di questa notte contro il Chelsea, però questo è il mio giudizio. Comunque la conferma che al momento il Milan, forse non solo il Milan, il discorso lo possiamo allargare a tutto il calcio italiano, è lontanissimo dall'essere competitivo con le grandi, perché ad esempio Mourinho questa notte ha di fatto giocato con 2 squadre, quindi anche gli altri stanno sperimentando, eppure contro di noi in queste partite tra big sono quasi sempre padrone del campo, Stefano. Purtroppo adesso è così, spesso e volentieri riescono a fare gioco le altre e le squadre italiane si devono un po' adattare, non tutte, cioè, mentre la Juventus a tratti l'anno scorso ha fatto vedere che potrebbe essere la squadra che tiene sul nome delle squadre italiane nel calcio europeo, però non deve mai perdere la concentrazione e questo deve succedere. Come si è visto anche in America, se cade un po' di concentrazione fai anche degli errori banali dove vai incontro anche lì a delle figuracce. Per quanto riguarda il Milan, è sicuro che ci vogliono un po' di tasselli ancora, questo bisogna vedere poi se la società riesce ad ottenerli, ma certamente i tasselli di qualità non per portare qualcuno al Milan. Sì, gli AIC io credo sia sicuramente, se arriva un tassello di qualità, anche se secondo me il Milan avrebbe bisogno di un puntello e un puntello forte dietro soprattutto. È quello che purtroppo con aver dato via Thiago Silva, che è un ragazzo giovane, un ragazzo di grande qualità anche per il futuro, per diventare leader, sarebbe stato in questo momento veramente la ciliegina sulla torta, cioè il giocatore che avrebbe potuto tenere su in piedi tutta la difesa solo con la sua presenza. Adesso invece ti viene a mancare un po' di velocità dietro e questo crea un po' di problemi, anche perché devi impostare sempre una partita dove devi essere in attesa, mentre invece quando hai un giocatore talmente forte dietro che può comandare e essere molto veloce, poi comunque andare a cercare l'avversario un pochettino più alto. È quello che in questo momento il Milan non riesce a fare. Però. No, non riesce a fare, c'è sicuramente un po' di difficoltà per la condizione atletica, c'è però anche difficoltà nelle caratteristiche dei giocatori. La verità è che i valori in Europa sono questi, dobbiamo ancora soffrire per molti anni, scrive un amico che non si firma al 349-238-6666, e poi Mimmo che invece ci chiede un giudizio sulla Roma e su Gervinho. Il mio giudizio sulla Roma è positivo, su Gervinho non lo so, caro Mimmo, credo che se non ci fossero questioni di bilancio e questioni di ambiente, di spaccatura con tutto ciò che circonda la squadra, la Roma starebbe meglio in attacco tenendosi quelli che ha, a partire da Osvaldo. Stefano, cosa ne pensi? Osvaldo come giocatore non si discute, ha avuto un pochettino caratterialmente un giocatore un po' che va gestito, che spesso e volentieri i problemi che ha avuto proprio sono stati quelli caratteriali. È normale di Gervinho, Gervinho è un giocatore che a sprazzi può sicuramente essere un giocatore importante, però bisogna vederlo nel campionato italiano, perché in Inghilterra è una cosa e il campionato italiano è un'altra. Certo che è un giocatore comunque che ha le sue qualità, potrebbe rendersi utile, ma se deve scegliere con la permanenza di Osvaldo, forse sarebbe la scelta migliore. Sì, al netto di problemi di bilancio, ripeto, e di ambiente, io mi sarei tenuto Osvaldo tutta la vita. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Io saluto e ringrazio Stefano Eragno. Ciao Stefano, grazie. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo per la borsa. Quando torniamo, spazio alle vostre telefonate. Io voglio sapere che cosa ne pensate della Juventus, dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma. Poi parleremo anche dei mondiali di nuoto, perché è vero, come scrive un amico via SMS, abbiamo fatto schifo, dovete avere il coraggio di dirlo. Lo diciamo, però cercheremo anche di capire perché. Tutti convocati. Direi che è stata una buona partita contro un'ottima squadra, una squadra importante come il Chelsea. Nel primo tempo abbiamo concesso qualche situazione di troppo su qualche palla persa nostra, infatti il primo gol è nato da un contropiede, una ripartenza del Chelsea, il secondo lo stesso. I ragazzi sono ben comportati, credo che sia stato fatto un passo avanti rispetto alle partite precedenti. Il passo avanti di Max Allegri. 800 24 00 24. Allora partiamo da Bari. Francesco, buon pomeriggio. No, buon pomeriggio. Io ho seguito la vostra trasmissione. Ora, al di là del flop delle nostre squadre, le big, io facevo una riflessione da tempo. Il problema è un altro. Ora in Italia continuano ad arrivare tanti stranieri, alcuni sconosciuti, l'Inter che prende i vari Pereira, tutti questi qui, e invece lasciamo andare via fenomeni come Verratti. Fin quando in Italia ci saranno i Pirlo, che solo perché sono Pirlo non avranno mai spazio questi fenomeni giovani e soprattutto italiani. Io seguo il Bari e ho seguito i vari Bonucci e Ranocchia insieme, erano forse secondo me i difensori più forti, il futuro della nazionale. Ora io mi domando perché il campionato cadetto, che dovrebbe essere il bacino, il primo passo verso una carriera professionistica per i nostri giovani, è in totale depressione. Non c'è più un investimento nel settore giovanile da parte delle piccole squadre che dovrebbero essere supportate dalle grandi. Secondo me il problema non è i vari Tevez, Lorente che arrivano. Dov'è lo sviluppo del settore giovanile? Che siano, ripeto, i vari Ranocchia, che erano dei fenomeni, io li ho visti allo stadio. Bonucci, erano dei fenomeni, guarda caso arrivano nelle grandi squadre e iniziano ad avere loro difficoltà. Perché non creiamo la cultura del vivaio, dei settori giovanili? Il Barcellona gioca con ragazzini di 20, 18, 19 anni. Dove sono i nostri fenomeni? I nostri sono in panchina o vanno all'estero? Bravissimo, bravissimo. Questa è la cosa che mi fa rabbia. Un Verratti, un patrimonio per il calcio nazionale, un fenomeno che è lì buttato al Paris Saint-Germain. Però Francesco, a parte che il Paris Saint-Germain è una squadra che quest'anno parte per arrivare in fondo anche nella Champions League, per intenderci, non è che Verratti sia in esilio come ad esempio andò Eto'o all'Angi. È in un progetto che deve crescere e che potrebbe anche essere il progetto giusto per lui. Verratti l'anno scorso è stato un errore della Juventus prima di tutti, ma anche del Napoli. De Laurentiis l'ha ammesso, ha provato a prendere il giocatore, l'ha avuto in mano, nessuno ci ha creduto, poi è arrivato il Paris Saint-Germain e se l'è portato via, e adesso almeno per qualche anno difficilmente Verratti rientrerà. La Serie B non è quel serbatoio che potrebbe essere, perché è molto più comodo, mi sembra, i ragazzi farseli prestare dai settori giovanili delle grandi squadre, molto più semplice, molto, molto meno costoso, però così è difficile poi costruire qualcosa che rimanga. Alessandro, dalla provincia di Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, prego. Un complimento alla trasmissione. Allora, grazie. La mia considerazione, se posso, non voglio fare sapientone, ma... volevo dire, secondo me il divario che c'è tra le squadre spagnole, inglesi e italiane è dovuto, secondo me, alla scarsezza del loro campionato, per il fatto che magari le due big che ci sono nei rispettivi campionati non devono faticare tanto magari con le altre squadre, allora arrivano sempre alle partite di Champions riposate. Anche basta guardare il Bayern, come ha stravinto già ad aprile, marzo, aprile aveva già vinto il campionato, quindi penso che era molto più riposato anche di testa. Invece le nostre piccole, quando incontrano la Juve, danno tutto e quindi stancano anche la Juve, il Milan. Sì, c'è evidentemente una differenza di tensione che contraddistingue il nostro campionato, però Alessandro, io non credo che la differenza sia questo. Semplicemente Barcellona e Real Madrid hanno due rose che in questo momento le italiane non si possono permettere nessuna, nemmeno la Juventus, che ha un progetto economico in espansione, nemmeno il Milan, che è la società italiana con il fatturato più alto. Milan e Juventus messi insieme non fanno il fatturato del Real Madrid, e io non vi voglio annoiare, però il fatturato significa possibilità di acquistare giocatori, possibilità di investire, di pagare stipendi. Il Milan sta facendo la lotta del milione di euro per gli AIC, giorni e ore in cui ad esempio a Madrid si progetta una spesa da 120 milioni di euro per Bale. Oggi Marca dà in prima pagina la notizia del rinnovo di contratto di Cristiano Ronaldo fino al 2018, 17 milioni di euro netti più la metà dei diritti di immagine. Poi in realtà Ronaldo ha smentito di aver già trovato l'accordo, però 17 milioni di euro, che all'ordo fa circa 35, significa per intenderci più di un terzo del monte stipendi di tutta la rosa del Milan, cioè stiamo parlando di differenze che da questo punto di vista al momento sono abissali. Non è solo una questione di possibilità di riposare in campionato perché c'è poca concorrenza. Paolo dalla provincia di Udine, buon pomeriggio. Paolo, sì, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Una considerazione sull'Udinese, che secondo me è il vero miracolo italiano, parlando di fatturato, parlando di rapporto fatturato punti ottenuti, e una piccola polemica, se voglio, proprio se posso, riguardo agli organi di informazione, gli organi di stampa soprattutto, che ne parlano poco. Il venerdì mattina zero commenti sulle prime pagine dei giornali, nemmeno due righe di un trafiletto della partita dell'Udinese nei preliminari di Coppa. Avesse giocato l'Inter avremmo avuto titoloni, pur se avesse giocato con magari squadre come il Sirocco, con il quale ha provato l'Udinese. È la legge del mercato, Paolo. Detto questo, quindi... io, Paolo, seguo con grandissimo interesse quello che sta accadendo a Udine in queste settimane. L'Udinese, per chi non lo sapesse, ha investito 20 milioni di euro, gli altri 20 li ha dal credito sportivo, per fare il nuovo stadio, il nuovo Friuli. E questo è un investimento, e lo dimostra l'esperienza della Juventus, che proietta un club nel futuro. La Juventus ha triplicato i ricavi da stadio nell'arco di una stagione. Non c'è nulla che non possa far prevedere che la stessa parabola accada per l'Udinese. Ovviamente siamo su ordini di grandezza differenti, però questo per capire che quando c'è un progetto, il progetto non è soltanto il settore giovanile o la capacità di andarsi a trovare fuori dei giovani interessanti che poi nell'arco di un paio di stagioni diventano uomini in mercato. Progetto significa aver chiaro in testa che cosa serve per far crescere una società. C'è un aspetto dell'intervista di Moratti di sabato mattina alla Gazzetta dello Sport che mi ha molto colpito. Moratti dice in sostanza: non siamo stati capaci di far rendere l'Inter per quanto può valere, abbiamo fallito dal punto di vista commerciale, del marketing, del merchandising, e secondo me questa è un'autocritica spietata che si può allargare a quasi tutto il calcio italiano, ma che è detta dal proprietario di una delle prime tre società d'Italia, scusate, ma a me fa effetto. Mauro da Bergamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego Mauro. Io vorrei parlare riguardo al calcio scommesse, non tanto Dica. Per la sentenza, in quanto vabbè, molto oscure le motivazioni che non abbiamo forse ancora avute, ma no, le motivazioni, Mauro, mi perdoni, le motivazioni ci sono, perché non si può dire che non ci sono, si possono condividere o meno. Le motivazioni sono che secondo la disciplinare le due partite, Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, sono due partite in qualche modo combinate o comunque che hanno subito la pressione di questo gruppo di scommettitori, ma i giudici sportivi non sono riusciti a individuare chi possono essere stati poi gli esecutori materiali della combin, e da qui al massimo la condanna per omessa denuncia. Ognuno traga le sue conclusioni, però le motivazioni ci sono scritte nero su bianco, scusi, sono queste. Prego. Soffermarmi su un altro, perché penso che poi l'appello oppure la giustizia ordinaria farà prima o poi luce. Io vorrei soffermarmi sul trattamento mediatico della notizia. Io cercavo notizia, per esempio, sulla Gazzetta dello Sport di sabato, e ho dovuto metterci mezzo minuto per trovarla in prima pagina. Era in un box di 3 cm per 4 con articolo a pagina 16. Anche nella vostra, direi in genere, obiettiva trasmissione se ne è parlato venerdì poco, anzi c'era un ascoltatore che quasi chiedeva il risarcimento per Mauri. Ecco, non so quale logica si celi dietro queste scelte editoriali. Forse che della Lazio non si può parlare a mercati aperti? No, guardi, non mi risulta che esista alcun vincolo, tant'è vero che la sentenza è uscita a mercati aperti, se vogliamo restare sulla sua provocazione. Certamente è più facile condannare e penalizzare il Siena piuttosto che la Lazio, ma questo è storia. Secondo me l'eredità che lascia la sentenza della disciplinare su questo sesto, ma temo non ultimo, filone del calcio scommesse è un po' più interessante. Forse la Gazzetta ha dato un box soltanto alla sentenza, non mi sembra in realtà, però è molto interessante l'intervista del procuratore capo di Cremona Di Martino alla Gazzetta dello Sport. Di Martino ha detto che queste sentenze non fanno bene al calcio, ma soprattutto, e questo secondo me è l'aspetto più interessante, sta cambiando pelle il processo sportivo. Prima prendevano le carte, avevano l'esigenza della rapidità, decidevano. Adesso si sono messi ad ascoltare testimoni e a fare attività che, ad esempio, ha citato un paio di episodi, la mia stessa procura non è riuscita a fare, ha detto Di Martino, forse perché venire a raccontare bugie qui davanti a un magistrato è più pericoloso, è più difficile che farlo davanti a una commissione disciplinare. Io non so se sono bugie, so che certamente una volta che si saranno fermate le bocce di tutta questa vicenda del calcio scommesse, sarà necessaria una profonda riflessione sul rapporto tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. Tutti convocati. E il fair play finanziario dove lo mettiamo? Chiede Carlo da Cuneo al 349-238-6666. Lo mettiamo che vediamo fra un anno, perché il fair play finanziario serve per sanzionare, non per prevenire i comportamenti dei club. È evidente che qualcuno è fuori dal fair play finanziario. È del tutto evidente che nei prossimi 12 mesi si combatterà una battaglia politica fondamentale. E vedremo che forza avrà l'UEFA, che forza avrà Platini per far rispettare le regole che ha scritto. Poi ancora un amico: adesso vi scandalizzate quando 10 anni fa i mega ingaggi li dava Berlusconi, più in generale il calcio italiano, eravamo considerati dei fenomeni. È vero, il problema è che noi adesso i soldi non li abbiamo più, e quindi in questo momento soffriamo una situazione che è obiettivamente difficile. E poi Dex da Padova: se l'Inter non compra almeno due difensori forti, non ha alcuna possibilità. Secondo me non è questo il problema dell'Inter, c'è una carenza generalizzata di qualità, almeno se il metro di paragone è quella che può essere la storia dell'Inter anche recente. Roberto da Milano, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche lei, buon complimenti per la trasmissione. Grazie. No, io riguardo sul Milan, io dico, sono un po' d'accordo con la signora Di Bari. Puntare sui giovani, anche perché adesso mettiamo a caso che arriva anche Iro, Honda, gli altri c'è ancora può andare bene perché è giovane, ma dico, andare sui giovani come Saponara, Poli, in più ad esempio cerca un difensore abbastanza forte, oddio, era nei livelli del Milan un po' di anni fa, tipo Astore del Cagliari. Sì, però sono giocatori, Roberto, che certamente hanno delle prospettive, ma poi naturalmente secondo me devono comunque essere mandati fuori a fare un minimo di esperienza. Non è facile, il Barcellona è qualcosa secondo me di irripetibile, ma non solo in Italia, perché un modello come quello del Barcellona c'è in Olanda, ma non c'è ad esempio in Germania, non c'è in Inghilterra, e poi si rischia anche di doverli ricomprare questi giocatori. È il caso di Astori, in passato è stato il caso ad esempio dell'Inter, che alla fine ha perso Destro, però l'aveva monetizzato, e quindi alla fine secondo me fare un buon vivaio, un buon settore giovanile, significa anche poterlo monetizzare, non necessariamente avere poi le squadre piene di giocatori che provengono da lì. Un amico scrive al 349-238-6666: ieri ero a Jesolo, ho visto l'allenamento del Sydney di Del Piero e mi è tornato in mente il ben servito che gli ha dato la Juventus. Sentite Del Piero che a dicembre deciderà che cosa fa in futuro. Quello che invece sono le prospettive come giocatore, anche non solo come giocatore, molto molto Sì, come giocatore, come persona vivo molto, non dico al momento, ma con una programmazione molto, molto breve, nel senso che mi concentro su quello che è quest'anno, ho un'età per la quale devo valutare bene tantissime cose, dal fisico alla testa a tutto quello che mi ruota attorno, quindi può essere l'ultimo come no, ma ovviamente sarà una decisione che prenderò magari dopo Natale. Io scommetto che non è l'ultimo, però noi adesso andiamo in piscina, andiamo a Barcellona. Dietro Gregorio Paltrinieri sulla destra, la nazionale italiana che segue l'impresa di Gregorio, Connor Jäger, gli assalti dello statunitense che vengono respinti, 1450 metri, 50 all'arrivo, Sun Yang 14 e 04, Cochrane che accusa il colpo, accusa l'attacco inesorabile del campione cinese che si lancia verso la vittoria nei 1500 stile libero. Stiamo per assistere ad un'altra grande impresa di questo ragazzo venuto dall'est della Cina. Sun Yang per la medaglia d'oro, Ryan Cochrane argento, Gregorio Paltrinieri è bronzo, una grandissima soddisfazione, una grandissima medaglia, arriva la seconda nel nuoto in vasca, Gregorio Paltrinieri, bronzo mondiale, il tempo 14:45:37. E c'è anche il record italiano. E c'è anche il record italiano e c'è anche con noi Roberto Perrone. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio. Inviato del Corriere della Sera che ha seguito i mondiali di nuoto. Meno male che c'è Gregorio Paltrinieri. A me non piace misurare lo stato di salute di uno sport semplicemente contando le medaglie, però è evidente che l'argento di Federica Pellegrini, il bronzo di Paltrinieri e poi null'altro, almeno per quanto riguarda la vasca, riportano il nostro nuoto indietro di qualche anno. Ma sicuramente a livello di risultati siamo scesi. Ricordo che 10 anni fa nella stessa vasca al Palau San Jordi eravamo usciti solo con il bronzo di Rosolino e poi era cominciata una nuova stagione del nuoto italiano. Sicuramente, rispetto a certi fasti del passato, rispetto ai mondiali di 2 anni fa, abbiamo diminuito le medaglie. Però io personalmente, forse faccio il vecchio trombone qual sono, ma quando erano cominciati questi mondiali avevo detto che se noi prendevamo 2 medaglie in piscina era un trionfo, 2 medaglie sono arrivate. Io avevo pensato ad altri protagonisti, però alla fine quello che io pensavo nella mia modesta così militanza a bordo vasca si è perfettamente realizzato. Bisogna essere realisti, insomma. Sì, al di là delle mancanze di podio, oggi si fa anche il conto, 32 eliminati nelle batterie, il segnale viene scritto sulla Gazzetta dello Sport che il livello delle nostre seconde linee non è adeguato, traduco in italiano il segnale che dietro Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, probabilmente c'è poco, pochissimo e anche in prospettiva, Gregorio è giovane, Federica Pellegrini non più giovanissima, c'è da fare un lavoro profondo. Ma sai, io dico sempre che nello sport individuale, oltre che il lavoro, bisogna avere anche molta fortuna. Cioè, Ruta Melitute, che penso che un grande pubblico magari non conosce, che ha vinto una medaglia d'oro nei 100 rene, una medaglia d'argento nei 50, è nata a Kaunas, in Lituania. Si allena in Inghilterra ed è praticamente l'unica fa nuoto in quel paese a livello mondiale, però basta una così e tutti parlano della Lituania, cioè non è che bisogna avere… Sì, non è necessario non è necessario profondo. Avere tre, cioè noi non siamo gli Stati Uniti, ecco, cioè in questi anni c'è stato un equivoco… c'è stato un equivoco tipicamente italiano che noi, in cui nello sport si applica a tutto lo sport logica calcistica, no? Per cui appena c'è un fallimento scattano i processi, invece dei processi bisogna riflettere sul fatto che nella piscina dove si allenano Lochte e i suoi compari adesso si nuota solamente, mentre invece nella piscina dove si allenano Marco Orsi, Ilaria Bianchi, Mirko Di Tora, Bologna, che si chiama Lo Stellino, adesso ci fanno le feste d'estate e la gente va lì e si butta, dopo aver veduto lo spritz, si butta in piscina. Cioè bisogna anche ragionare su questo e rendersi conto che ci sono delle difficoltà in Italia che in questi anni, grazie alla fortuna di aver trovato degli atleti di vertice, dei buoni allenatori, abbiamo, come dire, coperto. Però queste difficoltà ci sono, quindi non bisogna né fasciarsi la testa né cospargersi di cilicio, bisogna lavorare. Ci sono alcune certezze, che sono questo giovane Paltrinieri, che è una persona a posto, ci sono Scozzoli, che è un grande atleta, che ha fallito, purtroppo questo è un passaggio a vuoto, dopo quello di Londra, magari però lui ha le potenzialità, ieri ha nuotato una frazione a rana nella staffetta mista devastante, che se avesse nuotato nella sua gara probabilmente sarebbe andato sul podio, quindi ci sono tutta una serie di cose da valutare. Io voglio dire, ho cominciato a seguire il nuoto quando prendere un bronzo era un miracolo. Fino al 96, in 100 anni di storia, è sempre stato così. E solo 4 atleti erano saliti sul podio olimpico, e fino al 96 nessuno aveva mai vinto un oro olimpico nella storia del nuoto italiano. Stiamo parlando di meno di 20 anni fa. È chiaro che, come sempre succede in Italia, l'abbondanza dà alla testa dei mediocri e degli presappochisti. Sì, facciamo fatica, Roberto, a capire di aver vissuto alcune stagioni al di sopra delle nostre possibilità dal punto di vista dei risultati. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, dobbiamo fare i conti con la realtà, con molta calma, e per favore lasciamo fuori la mentalità calcistica per cui quando si perde è colpa dell'allenatore, perché nel nuoto, che è uno sport individuale come nel tennis, allenatore, la responsabilità dell'atleta è quasi sempre al 60%, cioè se uno è una pippa. Questi giorni sento molto parlare di Lucas, che ha fatto riandare la Pellegrini forte. Allora Lucas, se gli affidi una pippa e non la fa andare, perché una pippa non va. Federica è una fuoriclasse straordinaria. Esatto, bisogna affidargli delle fuoriclasse e lo dimostra anche come ha costruito questa sua stagione. Infatti Lucas, se gli chiedi qual è il suo segreto, lui ti risponde: sono gli atleti. E non certamente c'è nulla da inventare. Grazie Roberto Perrone. Sì, arrivederci, ciao. Grazie Roberto Perrone. 800 24 00 24 Giancarlo da Salerno, buon pomeriggio. Salve, prego. Buongiorno a tutti. No, volevo porre una questione, sentire un po' il vostro parere. Dica. Sulla Supercoppa fra Lazio e Juventus fissata per il 18 sì. agosto a Roma. Vabbè, mi astengo dal fare commenti sulla scelta della sede e sulla ripartizione dei proventi. Politica. Quello che mi chiedo è, cioè, la Lega non sa che la Juve ha dato alla nazionale 7 giocatori che avrebbero iniziato la preparazione con ovviamente notevole ritardo, perché hanno partecipato alla Confederation Cup. Quindi la Juve sarà costretta a giocare la Supercoppa con l'ossatura base della sua nazionale e della sua squadra, soprattutto della difesa: Chiellini, Barzagli, Bonucci, Buffon, Pirlo, Marchisio, con una preparazione di 17, 18, 20. Sì, le dico di più, Giancarlo, però il discorso poi lo ampliamo a tutti. Il 14 c'è l'amichevole Italia-Argentina, in generale è una data FIFA per le amichevoli, e quindi chissà come potranno preparare questa partita Petkovic e Conte. Ad esempio Conte perderà molti italiani per Italia-Argentina, che è un amichevole che ha un significato particolare perché è in onore del Papa. Grazie Giancarlo, chiudiamo con Roberto da Bologna, buon pomeriggio. Buongiorno. Le do 30 secondi, prego Roberto. No, niente, volevo dire questo, io non ho più passione molto nello sport in generale, nel calcio, perché guardiamo solo il calcio scommesse, se tutto più che una bolla di sapone, anche tutto con un calciatore che sta, non so adesso il nome, che non mi ricordo, comunque ha fatto 6 mesi di carcere del genere, poi alla fine... No, ha fatto una settimana di carcere, non esageriamo. Beh, insomma, comunque l'hanno, insomma, era stato condannato, no? Un buffetto, invece poi un buffetto. Tutti gli altri. Poi volevo dire un'ultima cosa, sì. Anche nello sport, nel nuoto così, nel ciclismo di là, e anche nel calcio, ma quando è che cominciamo a fare veramente delle indagini per scoprire chi si dopa? Perché secondo me c'è un doping impressionante anche nei dilettanti, ho letto sul Fatto Quotidiano, nei ciclisti, ma anche nei corridori della domenica. Sì, però, però Roberto, non bisogna cadere nel qualunquismo. Noi qui ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato con Sandro Donati, che non fa sconti a nessuno, ci sono grandissimi interessi, però non bisogna neanche pensare che non si stia facendo nulla. Noi ci fermiamo qui, un ringraziamento a Franco Piantanida, autore di questa puntata, Filippo Aureggi in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano, l'appuntamento domani alle 14.00.